17. Wozzewski fu trasportato nella sua camera e i direttori e gli inservienti del Grand Hotel si affollarono in costernato e bisbigliante gruppo fuori dalla sua porta. Un dottore svedese, arrivato la vigilia all'hotel, fu chiamato di furia e gli scese in veste da camera, aiutato da Stahl, fasciò e medicò la profonda duplice ferita. La palla aveva trapassato la nuca di Bozewski, uscendogli di sotto il mento. Con mia cugina Vera e la signora Stahl, io ero salita nella camera di Bozewski. Ora, silenziosa ai piedi del letto, piangevo e pregavo. Bozewski, affondato nel cuscino, con gli occhi socchiusi e la testa e il collo fasciati, pareva già morto. Improvvisamente aprì gli occhi, li girò all'intorno e il suo sguardo si fermò su me, mosse le labbra come per parlare e io accorsi e mi chinai su di lui. Egli sussurrò: «Sta qui!» «Sì!» dissi io e sedetti vicino al letto, prendendo fra le mie la sua mano umidiccia e gelida. Egli ripeté fiocamente: «Sta qui, non andar via!» Il dottore svedese si lavava le mani e parlava a bassa voce con Stahl, poi disse rivolto a noi: «La Stahl e mia cugina erano sedute sul divano a piè del letto. Non agitatelo, non lasciatelo parlare né muovere la testa.» Indi uscì nel corridoio con Stahl. Le due donne rimasero spaurite e immobili sul sofà. Io guardavo Bozewski, che pareva assopirsi. Un cupo e sordo dolore mordeva il mio petto come un avvoltoio. Sentii la sua mano rallentarsi nella mia e il suo breve alito si fece più calmo e regolare, ma Stahl rientrò e subito Bozewski aprì gli occhi. Stahl venne accanto al suo letto e lo fissò lungamente. Poi disse rivolto a me: «Ora verrà un infermiere, io ricondurrò loro signore a casa e poi tornerò qui a passare la notte con lui.» Ricondurmi a casa? Ma come potevo io andare a casa, ritrovarmi con Vasili, al solo pensiero di rivedere colui che alle spalle, a tradimento, aveva spezzato questa splendida e trionfante gioventù? L'odio e il terrore divampavano in me. No, non sarei più andata a casa, mai più avrei toccato la mano omicida di Vasili Tarnovsky. Mentre così pensavo, qualcuno bussò. Era l'infermiere. Allora Vera e la Grigorievskaya si alzarono pianamente e dopo aver gettato uno sguardo pietoso su Wozzewski, uscirono in punta di piedi. Stahl sulla porta fece cenno anche a me, ma io scossi il capo. Bozewski, quasi avesse inteso, riaprì gli occhi. «Sta qui!» sussurrò. Poi, alzando la mano alla fasciatura che gli cingeva il collo, «Se vai via, strappo tutto!» E invero fece il gesto di strapparsi le bende. «Non vado via! Non vado via!» gli dissi. «Non ti lascerò mai più!» E mantenni la parola. Seppi più tardi che Vasili era andato a costituirsi alle autorità e che mia madre, tutta pianto e terrori, era andata a cercare i nostri bimbi e li aveva portati a Otrada con sé. Essi furono per lei e per mio padre due piccole fonti di felicità triste. Così il vecchio giardino della mia fanciullezza riaprì i viali d'ombra e i prati in fiore alle infanzie ignare, ma già colpite dal lutto dei tragici fanciulli di cui il padre era rinchiuso in carcere e la madre vegliava lontana presso una macabra, estranea agonia. Le angeliche figurette di Tioca e di Tania venivano a me nei miei sogni e dicevo, singhiozzando a quelle visioni adorate: «Oh, diletti miei figli, perdonate a vostra madre se non abbandona colui che per lei muore, stanotte forse o domani notte. Ahimè, ben presto egli morirà e col cuore straziato la vostra mamma tornerà a voi.» Bozeschi non morì in quella notte, né il giorno dopo né il giorno seguente. Dio riservava a lui e a me ben più tremendo strazio. Egli trascinò la sua lentissima agonia attraverso le orribili ore di 100 giorni e di 100 notti. Portò la sua tortura da città a città, da professore a chirurgo, da medico a ciarlatano. Uno dopo l'altro gli sfasciavano il collo intristito e bianchiccio, sondavano la ferita dagli orli bluastri, poi ricoprivano con le gialle garze il raccapricciante incavo. E noi tornavamo muti ai sontuosi alberghi che ospitavano la nostra cupa disperazione. Seppi in quell'epoca che Vasili era stato rilasciato in libertà provvisoria. Egli più tardi doveva essere assolto dai giurati della lontana città di Homel, che ritenevano aver egli avuto il diritto di uccidere. Forse era giusto, ma per colui che gli aveva colpito e per me, quale angoscia, mio Dio, quale tortura lungo i giorni strazianti e le angosciose notti. Ah, quelle notti, quelle notti. Noi le temevamo come si teme una belva accovacciata che ci divorerà. Tutto il giorno pensavamo alla notte. Appena si avvicinava il crepuscolo, Bozevski, sdraiato nel suo letto, con la faccia rivolta alla finestra, mi afferrava la mano e non la lasciava più. Ho paura, diceva. Non voglio che sia notte, non voglio. E io dicevo, ma no, è presto, è giorno ancora, tutti girano, tutti sono a passeggio. Ma la notte, furba e spaventevole, si acquattava negli angoli e a un tratto ci saltava addosso, nera, tacita, spaventevole, e il mondo dormiva intorno a noi due, svegli e soli, col nostro terrore. Allora cominciava la domanda eterna, ripetuta, ribattuta per tutta la notte. Che ora è? Non erano che le 9, erano le 9:30. Erano le 10, le 10:30, le 10:15, le 11, le 11:05, così per tutta la notte. A partire dalle 4 Bozevski si calmava, taceva, dormiva. L'ultima stazione del nostro calvario fu Aialta in Crimea. Colà vi erano ancora dei dottori da consultare, c'era Lajvanov, c'era il professor Bobros. Continuate con la stessa medicazione, disse l'uno. Cercate di non muovere mai la testa, disse l'altro. Allora, aggiunto agli altri spasimi, vi fu quello della immobilità. Voglio voltare la mia testa, diceva Bozevski nella notte. No, caro, no, te ne scongiuro. Voglio voltarla, voglio girarla di qua e di là. Se sto fermo ancora, impazzisco. Allora, lentamente, con infinite precauzioni, con gli occhi spauriti come chi ceda a una fascinante tentazione o commetta un'impresa di insana audacia, Bozevski girava la triste faccia affondando una guancia nel cuscino. I suoi riccioli biondi cingevano di flava gaiezza il povero volto spento. 18. Io, sola con lui nelle lunghe, terribili ore, ebbi sempre più ansia, sempre più spavento. Una sera telegrafai a Stahl: venite! E all'imbrunire del giorno seguente Stahl arrivò. Io avevo sperato coraggio e conforto dalla sua venuta. Ma appena lo vidi sulla soglia, magro e terrificante, sentii mancarmi il cuore. Più spettrale che mai, coi capelli irti e arruffati. Egli mi guardava, i suoi occhi semispenti erano mossi da un continuo tremolio. Lo salutai, tremando, e il contatto della sua mano floscia e umida mi fece rabbrividire. Ma Bozevski con un filo di voce lo chiamava a sé, pareva contento di vederlo. Gli stese la sua mano scarna e gialla e subito disse: Stahl, senti, voglio voltare la mia testa. Stahl parve non capire e Bozevski ripeté: voglio girare la mia testa. Ma sì, girala pure, disse Stahl, sedendo accanto al letto e accendendo una sigaretta. Fuori era già il crepuscolo. Chiusi le tende, accesi i lumi. Bozevski prese a girare la testa in qua e in là, dapprima lentamente con aria spaurita, poi più arditamente da destra a sinistra, da sinistra a destra. Stai fermo, tesoro mio, supplicai china su di lui. Stahl ha detto che non importa, disse Bozevski. Vero, Stahl? Ma Stahl non rispose. Fumava con gli occhi semichiusi e la bocca un po' aperta. Mi fece orrore e paura, poi vi fu un lungo silenzio. Avete pranzato? Chiesi a Stahl. Egli fece cenno di sì con la testa e continuò a fumare. Volli far prendere a Bozevski un tuorlo d'uovo nel latte, ma lui continuò a voltare la testa in qua e in là e non volle prender nulla. I rumori dell'albergo tacquero. La musica zigana che s'udiva fiocamente da lontano si spense, la notte strisciò macabra e muta su di noi. Stahl, dopo un po', si scosse e aprì gli occhi. Guardò me, guardò Bozevski, che nell'ombra tonda del paralume, assopito, con la bocca aperta, era desolante e grottesco nel suo colletto di garza. Stahl fece una smorfia, poi prese a respirare forte e affrettatamente, come quella notte del ballo, quando mi era vicino nella troica. Ansava, sibilando un poco e facendo dei gesti nervosi con la testa. Stahl! Sussurrai china verso di lui, accennando a Bozevski. Ditemi, che cosa ne pensate? Stahl non rispose. Pareva non udirmi, preoccupato di qualche sua fisica e misteriosa sofferenza. Che cosa avete, Stahl? Che cosa avete? Mi fate paura! Stahl ebbe un sogghigno nervoso. Si alzò e camminò in su e in giù. Respirava sempre forte, in fretta, aspirando l'aria fra i denti come chi sente delle fitte di dolore. Poi cominciò a parlare piano tra sé e sé. Posso aspettare? diceva a bassa voce. Aspetta ancora un po'. Aspetto ancora un po'. Boseschi aveva aperto gli occhi e lo guardava. Io sentivo i brividi corrermi come acqua ghiacciata per la spina dorsale. Stahl! Stahl, che cosa avete? E mi misi a piangere. Stahl pareva non udirmi. Camminava ancora, sibilando sempre più e borbottando. Aspetto! Aspetto ancora un po'. Ancora un po'. Bozevski gemette. Digli che stia fermo, disse guardando Stahl. Io afferrai il braccio di Stahl. State fermo, dissi, state fermo, subito. E come egli mi rivolgeva la faccia attonita e contorta, gli strinsi il braccio convulsamente, serrandoglielo con quanta forza potei. State fermo. Allora Stahl sedette, dicendo: Bene, bene, bene. Si cercò nella tasca e ne tolse un piccolo astuccio. Da bere. Dammi da bere, gemette Bozevski. Io, accorsi al suo capezzale, presi il bicchiere d'acqua zuccherata e mentre con l'altra mano, dietro al guanciale, lo sorreggevo, glielo porsi alle labbra. Egli bevette avidamente. Orrore, orrore! Mentre gli beveva, io vedevo sulla garza intorno al suo collo apparire ed estendersi una macchia bagnata color rosso pallido. Oh, che cos'era, mio Dio? Era l'acqua che gli beveva, che non inghiottiva e che gli usciva dalla ferita. Ora tutta la garza era bagnata, ora anche il guanciale. Stahl! Stahl! Urlai, guardate! Stahl, che pareva subitamente tornato in sé, si avvicinò. Io avevo rimesso giù il guanciale e Bozevski con gli occhi aperti ci guardava. Già, disse Stahl, contemplandolo pensosamente, già. Poi si volse improvvisamente a me. Vieni qui anche tu, perché soffrire? Allora vidi che aveva in mano un piccolo strumento di vetro, la siringa di cocaina. Mi serrava il polso come in una morsa e con l'altra mano mi cacciava all'indietro l'ondeggiante manica della vestaglia. Che fate? Che fate? Singhiozzai. Perché vuoi soffrire? Ruggì Stahl e mi tenne fermo il braccio. Mi uccidi? Domandai. No, no, non ti uccido, vedrai. Io abbandonai il mio braccio ed egli lo punse. Poi strofinò forte col dito la puntura. Ora vedrai, continuava a dire con un sorriso da sonnambulo. Siedi lì, e mi sospinse a sedere in poltrona. Bozeschi, nelle sue bende bagnate, sul suo guanciale bagnato, ci guardava. Io volevo soccorrerlo. Volevo parlare, ma già una inerzia vaga mi vinceva, un senso di torpore, di sonnolenza calava grave e dolce su di me. I miei nervi tesi e contratti si rallentavano, cessava ogni ansia, io mi sentivo come tuffata in un fluido molle. Vedevo Bozevski agitarsi e ricominciare a volgere la testa in qua e in là, ed io, sprofondata nella mia dolce lassitudine, lo osservavo, contenta di non soffrirne. Vidi Stahl sdraiato sul divano con un sorriso ebete ed estatico sulle labbra, ed un tratto Bozevski chiamò. Io l'udii, ma non avevo voglia di rispondergli. Egli si rizzò a sedere e, guardandoci entrambi con occhi stralunati, ci chiamò, urlò, poi si mise a piangere. Io udivo quel pianto, ma la letargica beatitudine che mi avvolgeva mi riteneva lì, sdraiata e languida. Certo, sorridevo anch'io, tanto mi sentivo lontana e distaccata da ogni sofferenza. Allora vidi Bozevski che con le due mani ricurve come grinfie si graffiava, si strappava le bende dal collo, tirava, lacerava la garza con gesti frenetici e celeri e mettendo un piccolo pianto breve, come piange un cane rinchiuso in una stanza. Io sorridevo. Lo so, guardandolo dalla mia poltrona, Stahl aveva chiuso gli occhi e dormiva. Quando il magro collo fu scoperto, egli non cessò dai gesti frenetici e celeri. Ciò che videro i miei occhi allora non lo dirò. Così morì Sergio Bozevski, il più bell'ulano della Guardia Imperiale. 19. Dopo di ciò s'apre un baratro rosso davanti a me in cui tutto sprofonda, anche la mia ragione. La mia ragione, come una cosa staccata da me, l'ho sentita vacillare, cadere, sparire in quel baratro in mezzo ai morti. Per ritrovarla dovrei frugare tra i cadaveri. Eppure talvolta quasi non m'accorgo d'averla perduta. Giro per giorni e giorni sorridente, incosciente, quasi più leggera per quella stanza vuota che è nel mio cervello. Ma poi d'un tratto mi spavento, mi sento smarrita, premo le tempie invocando la saggia ospite consigliera. Ma nella mia tempia invece, fosca e sinistra, si è annidata la pazzia. Perché dalla mia lontana infanzia sorge un ricordo che si affaccia a me. Sono in collegio, non so dove. È l'ora del tramonto ed io in giardino gioco, lieta e solitaria, in mezzo a un prato. Vedo le margheritine già chiuse e arrossenti che dormono nell'erba. Qualcuno chiama il mio nome. Alzo gli occhi e lassù al finestrino di una torretta dove mai nessuno va. Vedo la testolina della mia compagna Tatiana. Vieni, Mura, vieni presto, quassù è pieno di rondini. Pieno di rondini. Ricordo ancora di quale statica gioia mi riempirono quelle tre parole. Sgattaiolando per le scale buie, corsi su, spinsi un uscio socchiuso e mi trovai con Tatiana nell'abbaino, già quasi scuro, e sì, era pieno di rondini. Volavano, volavano, guizzandoci sopra il capo, sfiorandoci il viso. Noi strillavamo di felicità, riuscimmo ad acchiapparne tante, ce n'erano anche per terra. Tatiana ne aveva pieno il grembiulino ed io ne tenevo tante strette nelle mani, nelle braccia, nel fazzoletto. Poi corremmo giù per le scale nel refettorio. Guardate, guardate, abbiamo preso tante rondini. Vedo ancora le ragazze affollarsi intorno a noi e il viso della maestra china su di me, sorridente e incredula. La vedo indietreggiare, inorridita, impallidendo, scossa da un brivido di disgusto. Misericordia, sono tutti pipistrelli. Ancora oggi il ricordo delle strida che gettammo buttandole lontano da noi mi fa accaponar la pelle. Ancora oggi mi par di sentire tra le dita e sulle guance il guizzo lubrico e liscio di quelle fredde membrane. Che viene a fare questo puerile ricordo nella fosca tragedia della vita mia? Gli è che quando salgo nella chiusa torre della mia mente per ritrovarvi i bei pensieri alati, eccomi guizzano d'intorno soltanto le mostruose chimere del delirio. I neri pipistrelli dell'ipocondria. Poco o nulla ricordo di quei funerei giorni in Yalta. Ricordo vagamente Stahl che diceva di Bozevski: è morto, è morto, è morto. E poiché io non gli credevo, mi condusse nel teatro anatomico. L'orrore mi chiude le labbra. Ancor più vagamente ricordo che Stahl una sera si uccise con un colpo di rivoltella. Da quello stesso teatro anatomico egli mi mandò. Tracciate in scrittura tremolante su un foglietto di carta lacera queste parole: Mura, non ho più che 40 minuti da vivere. Venite, venite, venite. Non andai a vederlo. Seguendo le lezioni apprese da lui, mi feci iniezione su iniezione di cocaina e tornai giù, nel crepuscolare mondo di sogni in cui in quell'epoca mi aggiravo mite. E maniaca. Ricordo che mi pareva di vivere sott'acqua, in una fluida ombra perenne. Appena mi sentivo tornare a galla e la vita stridente e cruda si riaffacciava alla mia coscienza, mi cacciavo nelle carni la punta di quel lago forato. La cocaina mi correva nelle vene e tornavo giù nell'ondulante penombra dell'irrealità. Ma un giorno una chiamata mi scosse. Era il grido acuto della maternità. Tioca, Tania, dove erano le mie creature? Perché? Perché erano vuote le mie braccia quando quei due esseri appartenevano a me? Inorridita di me stessa e dell'apatia sonnambulesca in cui da tanto tempo vagavo, balzai fuori dalla prigionia degradante del narcotico e mi riaffacciai trasognata e stupefatta alle soglie della vita. Oh, quante cose erano mutate! Io non ero più la contessa Tarnowskaja, adulata, invidiata, adorata. Le amiche d'un tempo volgevano altrove gli occhi. Gli uomini invece me li fissavano in volto arditamente, guardandomi come non avevano osato guardarmi mai. Vasili, il frivolo, l'appassionato, il mutevole Vasili, si era rinchiuso in un mutismo formidabile e temibile, come tra le mura di una fortezza. Invano io vi battevo con le mie fragili mani congiunte, invano piangevo, invano invocavo pietà. Irremovibile, inaccessibile, gli rimase chiuso nel suo sdegno, nelle sue porte, nel suo cuore, mai più si aprirono a me. Mi rifugiai coi miei figli a Otrada. Mio padre e mia madre, umiliati e avviliti, ci ospitarono, ma troppo tristi per darmi conforto. S'aggiravano muti nella grande casa patrizia e arrossivano per me davanti alla servitù. Anche i miei bambini camminavano in punta dei piedi, taciti e vergognosi, senza sapere perché. Un giorno, Tania, la mia piccola Tania, fu strappata alle mie braccia. Vasili me la portò via, né la rividi mai più. Ricordo che ero uscita, sola e triste, nel parco invernale. Al mio fianco trotterellava Bear, il fido cane da caccia di mio padre, che ogni tanto spingeva entro la mia mano inerte il suo muso umido e affettuoso. Ed io pensavo, quando Tioca sarà grande, mi lascerà. Vorrà andare da suo padre, vorrà entrare nel mondo e nella vita, sotto lieti e fortunati auspici. Tioca mi lascerà. Ma Tania sarà tutta mia. Tania crescerà candida e bionda accanto a me. Scorderò i miei lutti nella sua garrula tenerezza. Rivivrò più forte e più pura nella sua raggiante gioventù. Ma tornando verso la casa, vidi mia madre che mi veniva incontro, il grigio capo scoperto nel gelido vento, piangente, pallida. Tania non c'era più. Vasili l'aveva portata via. Né, per quanto io piangessi e pregassi, mi fu dato rivederla mai più. Ma quando venne il giorno in cui vollero rapirmi anche Tioca, urlai, lottai come una belva inferocita e niuna umana forza, me vivente, avrebbe potuto toglierlo a me. Fuggii portandolo via, piccola preda bionda, serrato a me, vegliato dalle mie ansie, asserragliato dalle mie paure. Così ebbero principio le frenetiche corse senza meta. Fuggivo, cacciata dalla furia che era nel mio sangue stesso, inseguita dai pipistrelli della pazzia che erano in me. Fuggivo, fuggivo, senza saper dove, senza saper perché. Così, sola col piccolo Tioca e l'umile Elisa Perrier, presi le vie del mondo. Quanto eravamo tutte e tre inetti e spauriti, ci pareva di vivere in un racconto di fate malinconico, quello dei fanciulli smarriti nella selva. Talvolta, in mezzo alle vie di una grande città, dove non conoscevamo nessuno, Tioca diceva: «Ho paura come se fossimo nella foresta, mamma!» Ed ecco che un giorno, eravamo a Mosca, ci apparve per la prima volta la lupa magra che ha nome Necessità. Io non l'avevo mai veduta, quasi credevo che non esistesse, seppur sapevo che al mondo vi era della gente che aveva bisogno di denari. Quella era la gente a cui si faceva la carità e basta, con noi che c'entrava? In tutta la mia vita non avevo mai pensato ai denari. 20. Elisa, sono stanca di vedermi in questa brutta veste nera. Scrivete a Chance che mi mandi delle vesti nuove. Voglio una toilette di voile grigio perla e un tailleur verde scuro. Sì, signora, ma perdoni, Chance ha detto che vuole essere pagato. Ebbene, lo si paghi? Sì, signora, ma perdoni, gli si devono 25.000 rubli. Ebbene, gli si diano. Sì, signora, ma perdoni, non abbiamo 25.000 rubli. E difatti non avevamo 25.000 rubli. Elisa, Tioca si annoia, vuole un gioco di ferrovia. Sì, signora. Bada, salta su a dire Tioca, deve essere quello che abbiamo veduto ieri, con tante città e un ponte sospeso come quello di Brooklyn. Sì, signorino. Ebbene, Elisa, che cosa aspetti? Perdoni, signora, costa 80 rubli. Ebbene, non li abbiamo. Difatti non avevamo 80 rubli. Elisa, non ho più profumi. Va a comprare una bottiglia d'Origan del Coty. Signora, ma perdoni, costa 12 rubli. Ebbene, non li abbiamo. E difatti non avevamo 12 rubli. Mi pareva assai strano di non avere 25.000 rubli e neppure 12 rubli quando mi occorrevano. Decisi di telegrafare a mia madre. Andai io stessa, triste e soprappensiero, all'ufficio telegrafico. Non vi era nessuno. Sedetti a un tavolo a scrivere il messaggio. Mamma mia, siamo tristi e sperduti, Tioca ed io. Voglio tornare a casa e stare per sempre con te. Mandaci. Sentii una mano posarsi sulla mia spalla. Alzai gli occhi trasalendo. Davanti a me stava un uomo, bruno, piuttosto alto, coi baffi castani e le guance pendule. Dove mai l'avevo già veduto? A un tratto mi balenò nei ricordi un ristorante vivido di luci, risonante di musica. Vasili, che tra le grandi risate contava le brune e petulanti zigane per vedere se ne mancasse una. Prilukov, lo scorpione. Sì, era lo scorpione di quella sera, che ora stava qui davanti a me con un sorriso amico. Chi avrebbe pensato di trovarvi qui? Esclamò. Che cosa fate a Mosca? Non lo so. E lo guardavo trasognata. Io stessa mi ero sovente domandata che cosa facessi a Mosca. Ho letto i giornali, continuò egli. So tutto. E soggiunse, prendendomi familiarmente il braccio. Andiamo, venite fuori con me. Prenderemo il tè al Metropolo e mi parlerete. Esitai. Ma volevo telegrafare. A chi? A casa mia. Perché? Perché non ho denari. Non importa, ne ho io. E così dicendo mi trasse fuori dall'ufficio. In cima della scalinata si fermò e mi guardò in faccia. Che bell'incontro, disse. È certo la nostra buona stella che l'ha voluto. E così dicendo i suoi occhi castani si affondavano nei miei. La nostra buona stella, ripeté. Misericordioso Iddio, perché non un soffio, non un tremito presa governi in quell'istante a premonirmi? Perché nessun sussurro della mia anima mi ammonì, nessuna divina ispirazione mi trattenne, nulla, nulla arrestò sulle mie labbra il sorriso, nulla, nulla spezzò sulla mia bocca le parole che dietro a lui ripetei, la nostra buona stella, così sia. Presi il suo braccio. L'ora del mio destino era scoccata. Mi avviai così alla rovina e al naufragio. C'era musica e gente nel Metropol quando vi entrammo. È strano che tutte le ore mie più memorabili e significanti ondeggino nel mio ricordo su di un ritmo gioioso di polka o di valzer. Tutti i drammi, tutte le stravaganze che sconvolsero la mia esistenza sbocciarono, tragici fiori moderni, nella serra calda di un ristorante alla moda, sotto l'anelito affocato e febbrile di un'orchestra zigana. A tal punto si è infitta nell'anima mia questa ossessione che appena io entravo in un ristorante dove c'era gente e lumi accesi e un'orchestra d'archi, subito divenivo folle. Tutto ciò che io pensavo assumeva forme disordinate ed eccessive. La voce dei violini mi esaltava, mi elettrizzava. Gli archi scorrevano sulle corde palpitanti e palpitavo anch'io. Fremevo, vibravo, scossa da indescrivibile agitazione. Pareva che le perturbanti onde sonore mi avvolgessero tutta in torbidi veli di sentimentalismo e di sensualità. Ah, se vi fosse stato più silenzio nella mia vita, più ombra, più raccoglimento. Non è tra le calme pareti domestiche, non è al chiuso placido focolare che germogliano i delitti, che si fecondano le perversioni, che si generano le catastrofi. Oh Tania, unica figlia mia, se il mio augurio materno e doloroso potesse giungere a te, circonderebbe d'ombre di silenzio la tua giovane anima verginale. E se io potessi ritornare indietro? Alle bianche, vacue lande della puerizia, inginocchiata, implorerei dai fati sull'esistenza mia, ombra e silenzio. Ma nel Metropol i lumi erano già accesi, l'orchestra suonava e lo scorpione beveva il tè, rideva. Ricordate allo Strelna la paura che avevate di me quando saltando dal divano vi toccai la spalla? E poi quando mi trovaste addormentato in fondo alla slitta? Sì. Ricordavo. Ed ora non avete più paura di me? No, ora non avevo più paura di lui. Il destino, ritto dietro a me, rideva e con le nebulose mani mi copriva gli occhi.